Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Sono le 10:08, buona domenica da Stefano Gallarini, comincia Il riposo del guerriero e oggi cercheremo di andare un po' in giro per il mondo, poi vi spiegherò perché, almeno chi naviga su internet e ha già scoperto l'argomento grazie alla nostra pagina di Facebook sa cosa sto per dire, gli altri invece lo scopriranno tra poco. Anzi, vi invito ad andare sulla pagina del riposo del guerriero su Facebook, che potrete commentare proprio anche da lì oppure con i vostri messaggi. Il numero per gli SMS è 349-238-6666. Anche oggi alle 11:30 per voi la possibilità di portarvi a casa fino a 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it con il mistero in 24 minuti. E visto che ci siamo, vi faccio ascoltare il primo indizio di questa settimana. Casa mia, devo ancora andar via. Questo è il primo indizio, si giocherà alle 11:30, vi ricordo il numero per prenotarvi, potete farlo da questo momento, 800 24 0024. La risposta, come sempre, può essere un personaggio, qualcosa di molto conosciuto o una delle notizie della settimana. Veniamo all'argomento invece della puntata di oggi, che è l'esterofilia, perché noi italiani così amiamo delle cose che ci appartengono, siamo anche orgogliosi di avere marchi prestigiosi da tanti punti di vista, ma immancabilmente, non so perché, ma le cose straniere ci affascinano sempre di più, o comunque così siamo sempre legati alle cose non italiane. Ah beh, se sei americano è meglio, o se tedesco è meglio, no? Sempre, c'è sempre un po' questo pensiero. Ma perché siamo esterofili? Cos'è che ci piace veramente? Cos'è che abbiamo preso in prestito dall'estero e fatto nostro? Questo è l'argomento di oggi del riposo del guerriero. Vi invito anche a segnalare quello che così avete catturato durante i vostri viaggi, o semplicemente le cose che non sono propriamente italiane e che vi piacciono, dal cibo fino ai viaggi. 349-238-6666 o pagina Facebook del riposo del guerriero. E visto che iniziamo con questa voglia di essere un po' stranieri ma anche un po' italiani, mi è venuto in mente che negli anni 60 non si faceva che tradurre in italiano canzoni molto popolari americane, e questo era il caso per esempio di Sognando la California. Cielo grigio su, cielo grigio su, foglie gialle giù, foglie gialle giù, cerco un po' di blu, cerco un po' di blu, dove blu non c'è, dove blu non c'è, se non aspettasse, se non aspettasse, so che partire, so che partire, ti sogno California. Fa rabbrividire sentire una traduzione così estemporanea italiana del California Dreaming, però insomma così si usava, no? Le canzoni erano belle, erano americane, perché non tradurre in italiano il testo? E così insomma è stato fatto per moltissimi grandi successi internazionali. Allora noi cominciamo con una chiacchierata con Nello Barile, che saluto, buona domenica. Buongiorno. Nello Barile, docente di sociologia dei processi culturali, lo IULM di Milano, e proprio con Nello volevo cominciare per capire quali sono le usanze, le tradizioni e anche le feste che noi mano a mano italiani abbiamo così portato nel nostro paese, con più o meno successo. Ma guardi, a me interessava molto il discorso che ha fatto sul linguaggio, perché in effetti la prima innovazione parte proprio dal linguaggio, no? L'accoglienza di pratiche che provengono dall'estero. Per quanto riguarda le feste, le tradizioni, io direi che al di là di quelle che già conosciamo, cioè da Halloween appunto di matrice più americana, oppure no, l'altrettanto famosa St. Patrick, che ci riporta un po' alla cultura irlandese, non c'è una grandissima così affermazione di tradizioni che provengono dall'estero, se non io immagino che fra una ventina d'anni appunto inizieremo a festeggiare il Capodanno cinese anche qui. Quelle che sono invece sicuramente di maggiore impatto, secondo me, appunto, io io citerei tra quel, appunto, tra, soprattutto delle pratiche, no? Che sono sì. pratiche culturali, pratiche di consumo e così via. Se, ecco, rimanendo nell'ambito anglosassone, oppure di provenienza appunto anglosassone, soprattutto americana, ma anche nord europea, per esempio, queste pratiche collegate al co, diciamo, le pratiche del co, dal co working al co housing, fino addirittura a pratiche più così radicali come il cosiddetto co sleeping, che sono appunto la dimostrazione di come una cultura, insomma, impostata su valori piuttosto diversi da quello, da quelli della cultura italiana, invece possano, insomma, influenzare radicalmente, insomma, le pratiche e trasformarsi in nuove tendenze. Ecco, quindi tutte le tendenze che hanno il codo avanti significa fare insieme, no? Quindi non più soli, ma fare insieme. Quindi rendere disponibili anche a persone che non si conoscono le cose che si possiedono, gli spazi, esatto. A determinare anche nuove forme produttive o di socializzazione, eccetera, appunto come il co-housing, come il co-working. Co-sleeping è un po' diverso, perché invece l'abbiamo visto in alcuni film, anche come ad esempio American Life, insomma, c'è questa pratica, questa idea del dormire con i figli, del rifiutare quindi l'isolamento che passa per il passeggino o per appunto altre imposizioni, diciamo, di uno stile di vita tradizionale, mettiamolo così, e quindi, insomma, sovvertire un po' le regole che sino ad ora hanno, no, reso possibile la crescita, appunto, ecco, della prole. Tornando alle feste un po' importate, no? Sì. Prima ha citato San Patrizio, per esempio, sì. Che non me ne è neanche venuta in mente, però è vero, no? Che si comincia anche qua. È un fatto di multiculturalismo, per cui si importa, perché ormai anche in Italia ci sono persone che provengono da altri paesi, che ormai sono stabiliti qui, o è un fatto prevalentemente, diciamo così, di business? Ecco, perché sì, è un... secondo me sì, direi la seconda, più che il di business, direi di consumo, di sì, cultura, sì, di chiamiamolo consumo, certo, sì. Nel senso che, appunto, non essendoci in Italia, l'Italia è ancora un paese fondamentalmente omogeneo da un punto di vista etnico, quindi, diciamo, il multiculturalismo, come dice lei giustamente, è meno affermato rispetto ad altri paesi, e quindi le cose arrivano spesso e volentieri più come, diciamo, di laterale, come una tendenza di consumo collegata ovviamente a un certo ambito turistico, in questo caso. Beh, chiaro, una giustificazione bisogna pur trovarla, altrimenti. Il riposo del guerriero. Ecco, professor Barile, tra le usanze o le tradizioni, le feste, insomma, che abbiamo importato dall'estero, ce n'è una, secondo lei, che si è imposta più delle altre? Quella che dicevo prima, appunto, Halloween mi sembra il caso più interessante, perché ha avuto un particolare impatto soprattutto sulle giovani generazioni e fa riferimento a un immaginario che conosciamo bene, che è quello appunto del cinema, no? Di un certo sì. tipo americano, cinema horror, quindi un po' tutto quella tradizione che rimanda appunto ai mostri e così sì, via. Perché... questo. Ecco, diciamo che è legato anche al divertimento, in qualche modo, anche lì al consumo, comunque, alla fine. Anche lì al consumo, ecco, prima di tutto per l'immaginario di riferimento che appunto citavo, e poi soprattutto perché, a differenza del carnevale, che ha un radicamento molto più forte nella cultura, no, locale, che rimanda addirittura, insomma, ai riti dionisiaci e così via, e invece Halloween è proprio un mito, un rito moderno, no? Quindi in un certo senso svuotato da tutto quell'insieme di, diciamo, di valori e anche di, no, potere diciamo pedagogico sì. sulla popolazione, no? Diventa davvero una messa in scena. Sì, siamo presi soltanto le maschere, ecco, neanche esatto, il concetto sì, di dolcetto scherzetto, o per dire, come diceva lei, o valori, insomma, più ludici. pedagogici, meno appunto rilevanti da un punto di vista pedagogico. Bene, siccome come italiani abbiamo molte usanze, tantissime tradizioni e feste, manteniamo quelle e piuttosto cerchiamo di esportarle, che sarebbe meglio. Grazie professore. A lei. Buona domenica, grazie. Allora, siamo esterofili, poi adesso arrivano anche i messaggi, perché ci sono dei prodotti che non arrivano dall'Italia e che per ragioni sono superiori alla qualità italiana, e questo può essere anche vero, però insomma abbiamo così sempre un occhio di riguardo verso le cose che arrivano dall'estero. Enrico Finzi è sociologo, presidente di Astra Demoscopea, che come sapete è una società di ricerca di mercato, e abbiamo parlato di consumi con la festa di Halloween. Enrico Finzi, buona domenica. Ecco, non c'è Enrico Finzi, è caduto in questo momento. Allora, c'è Marco per esempio che scrive un sms, vi ricordo il numero 349-238-6666, che scrive: l'esterofilia oggi si traduce in realismo, qui siamo tutti fenomeni, ma quando ci confrontiamo con gli altri paesi siamo i peggio, almeno secondo Marco, perché abbiamo enormi potenzialità ma non sfruttate, che poi non so quanto sia vero questo fatto di non sfruttare le potenzialità. Tra le altre cose, proprio recentemente su Twitter, Vinicio Marchioni, che è l'attore della serie Romanzo Criminale, il Freddo se non mi sbaglio, ha scritto proprio sul suo blog e sul suo Twitter, ha invitato, diciamo così, chi lo segue ad andare a vedere i film italiani, perché il problema è che i film italiani non si vanno a vedere, si preferiscono sempre quelli stranieri, ma quelli italiani si lasciano sempre come seconda scelta, e questo è un problema. Poi magari cerchiamo di affrontarlo anche con gli ospiti. Enrico Finzi, buona domenica. Buona domenica a lei e agli ascoltatori. Allora, parliamo appunto di consumi. Cos'è che abbiamo importato dall'estero? Qualcosa della quale non possiamo mai più fare a meno, per modo di dire. Abbiamo importato quasi tutto. Ecco, bene. Nel mentre esportiamo i prodotti connessi alla bellezza, lo si è visto anche in questi giorni a Milano, al fantastico Salone del Mobile, una volta dipendevamo da un singolo paese, siamo stati francofili quando la Francia era dominante, germanofili quando era la Germania, americanofili per un lungo periodo di tempo, anglofili pertanto, adesso ci ispiriamo a quasi tutte le culture planetarie. Ecco, ci piace tutto. Ci sono mode o prodotti che vengono dall'Estremo Oriente, altri che vengono dalla California, altri dal Sud America e così via, pressoché all'infinito. Abbiamo una sorta di globalizzazione del filo, filo qui, filo là, eccetera, eccetera. Insomma, qualcosa di abbastanza straordinario che si determina per la prima volta nella storia di questo paese. Importiamo quasi tutto per le motivazioni più diverse. Ma quali sono, per esempio, ancora il fascino? Perché faccio così, mi viene in mente una cosa: quando internet non esisteva, importare in qualche modo dall'estero degli oggetti, anche dei dischi, no? Della musica, poi parleremo anche di musica, era qualcosa di straordinario, perché in Italia era impossibile trovare determinati oggetti, determinati vestiti, determinata musica o altro ancora, spettacoli per esempio ancora sulle videocassette. Oggi invece con la rete è tutto molto più facile, ormai non bisogna neanche più spostarsi, no? I confini restano nostri, e quindi come è cambiato? Cioè, questo ha ancora, quindi lo straniero ha ancora fascino, cioè, come una volta, oppure l'ha un po' perso, cioè è normale, quindi non è più così affascinante, fa solo parte della nostra vita quotidiana? Guardi, non c'è più la precedenza. Una volta si andava all'estero per dotarsi di un prodotto tecnologico che in Italia non era ancora commercializzato. Adesso quasi tutto viene commercializzato ovunque e contemporaneamente, come lei dice, tramite la rete delle reti si sa tutto in tempo reale. Noi tendiamo adesso, più che novità, a importare valori o stili di vita che mitizziamo. Per esempio, l'Oriente. Sì. Dall'Oriente vengono moltissimi prodotti a basso costo, ma in realtà per moltissimi l'Oriente è un mondo un po' magico, di valori, diciamo così, new age, no? Sì. La musica viene da ovunque, non c'è più la leadership americana o inglese che c'è stata ancora fino a poco tempo fa. Prodotti per il trucco tipo l'Elnè vengono dal Marocco e prodotti brasiliani che prima erano semplicemente sconosciuti e magari danze tipo il samba vengono importati immediatamente. Le ripeto, c'è quasi tutto. Oggi però tendiamo a tirare a casa suggestioni più che tecnologia. La tecnologia è ovunque e onnipresente, ha detto in inglese everywhere, nowhere, è dappertutto e per così dire... Da nessuna parte, sì, certo. Ecco, ma quello che alla fine preferiamo, visto che ci facciamo così coinvolgere ancora, siamo ancora un po' esterofili, a parità di prodotto, cerchiamo un prodotto non italiano oppure puntiamo sull'Italia? Guardi, francamente dipende dal prodotto in sé, immagino. Certo. Per la tecnologia sì. Ancora tendiamo a dipendere dall'estero, per il buon gusto, l'estetica, il design, la moda, eccetera, tendiamo a dipendere dall'Italia, che d'altra parte è esportatrice di questi tipi di prodotti. Ci sono poi differenze per fasce di età. I giovani, ed è una cosa che può sorprendere, sono meno esterofili degli anziani. Per i giovani tutto è paese, per così dire, per cui non si può parlare di esterofilia, perché l'origine è considerata poco rilevante. Sono gli anziani più abituati a vivere in una condizione di semi-isolamento culturale che sono più in condizione di dipendenza dall'estero, di ammirazione estatica di tutto ciò che viene da fuori, quale che ne sia la qualità effettiva. La mia impressione è che con la globalizzazione dei gusti e degli stimoli tutto si intreccia con tutto e forse lo stesso tema esterofilia versus nazionalismo non esisterà più, tende a perdere di peso. Sì, sarà meno importante. Grazie Enrico Finzi, buona domenica. Grazie a lei, anche a voi. Presidente di Asta Demoscopea, la società di ricerche di mercato. Abbiamo parlato del gusto, anche della qualità italiana, c'è il suono del mobile ancora gli ultimi giorni. Valerio Di Bussolo, buona domenica. Buona domenica a lei e a tutti gli ascoltatori. Valerio Di Bussolo, responsabile delle relazioni esterne di IKEA in Italia. Allora io ho scelto di voler parlare con IKEA perché qui succede una cosa strana, nel senso che da un certo punto di vista gli italiani hanno abbracciato a piene mani un concetto, dico bene? Esatto, direi che dopo più di 20 anni lo possiamo dire. Sì, perché il successo è immediato, siete stati anche copiati, perché quando si è copiati vuol dire che sia successo, non c'è niente da fare, funziona così, mi dispiace. È un segnale. Per quanto brutto sia, comunque è un successo. Però sta succedendo qualcosa di molto interessante per noi italiani, di questo volevo parlare. Fra l'altro oggi c'è anche un'iniziativa particolare per la Giornata della Terra, è una cosa che non c'entra con l'esterofilia, ma ne volevo magari accennare alla fine discussione. Allora Di Bussolo, le chiedo di restare in linea perché c'è la pubblicità e poi torniamo a parlare di questo fenomeno IKEA che ha sposato, sta sposando anche l'Italia in un bel modo. Il riposo del guerriero. Siamo in diretta con Valerio Di Bussolo, responsabile delle relazioni esterne di IKEA in Italia. Oggi parliamo di esterofilia, quanto siamo esterofili, ma la cosa curiosa, come diceva prima Enrico Finzi, presidente di Asta Demoscopea, è che forse questa parola sta perdendo di significato perché ormai siamo globali anche in questo. Allora, Valerio Di Bussolo, stiamo parlando di IKEA perché mi pare che l'Italia sia il primo produttore per voi per quanto riguarda le cucine, è vero? È uno dei più importanti, nel senso che ha una quota di produzione molto alta, più alta dell'8% di quello che IKEA fa, quello che l'Italia fa per IKEA in tutto il mondo. Per cui non siamo proprio i primi, ma siamo tra i primi. Ecco, quindi l'Italia comunque scelta come produttrice, siccome si ha sempre l'idea che in IKEA di italiano non ci sia niente, e invece le cose sono molto diverse. No, l'Italia è perché il terzo paese di provenienza dei propri prodotti. Il primo è la Cina con il 22%, la seconda è la Polonia con il 18%, ma IKEA in Polonia ha degli impianti produttivi di propria proprietà, mentre invece l'Italia è al terzo posto con oltre l'8%, e questo 8% è fatto tutto da produttori indipendenti, cioè in cui IKEA non ha una partecipazione proprietaria, è un normalissimo cliente. Sì, e produce per voi chiaramente con grande qualità, per cui c'è molta Italia anche dentro il vostro marchio. C'è molta Italia, specialmente nei mobili, perché poi di questo 8% la grande maggioranza per l'appunto sono mobili e non complementi d'arredo, ecco, quindi stiamo parlando di cucine, scaffalature, librerie, divani, e quindi mobili importanti. Ecco, tra l'altro un primato comunque, siamo sul podio per quanto riguarda un settore particolarmente interessante. Adesso abbiamo visto anche con il grande successo di quest'anno del Salone Internazionale del Mobile, e quindi ci fa assolutamente piacere, perché restiamo lì, ecco, anche se IKEA ha scelto l'Italia vuol dire che riusciamo a competere per quanto riguarda costi interessanti, quindi bassi, e articoli di qualità, perché poi voi questo cercate in generale. Ecco, cos'è che è piaciuto così tanto agli italiani, e in questi 20 anni c'è qualcosa che cambia? All'inizio, non so, poteva essere curiosa IKEA perché ci si montavano i mobili, no? È una cosa che mai prima si era fatta. Adesso però forse la curiosità il successo è dettato da altri fattori. Ma diciamo, agli italiani piace molto la modularità e la funzionalità, cioè il fatto comunque di avere dei mobili, una specie di palestra in cui agire senza essere dei bricoleur, ma lasciando libera una certa creatività, quindi dei mobili che vuoi per la loro basilarità, l'estrema semplicità, vuoi per il prezzo, l'italiano tante volte interviene con la propria creatività anche sul mobile diretto, per cui c'è una sorta di liberazione dell'estro anche con è quasi paradossale, ma è proprio una specie di ribaltamento della globalizzazione. Siccome per essere globalizzati bisogna essere così essenziali per arrivare in tutti i mercati, questa essenzialità gioca poi a favore di chi usa i prodotti, perché li può aggiungere, li può colorare, li può combinare, li può cambiare anche funzione. Ecco, per quindi cui questa è la cosa che è diventata trainante, oltre ovviamente al fatto che diceva lei del buon rapporto tra prezzo e qualità. Ecco. Quindi la creatività degli italiani è, diciamo così, ancora una volta è la forza, visto che possono esprimerla grazie a questo modo di arredare. È una delle chiavi di lettura del successo anche dopo 23 anni, perché il primo negozio dell'89, siamo nel 2012, per cui ovviamente l'effetto novità non c'è più. Ecco, ci sono delle cose di IKEA Italia che sono completamente diverse rispetto a IKEA nel mondo, oppure tendenzialmente sono tutti identici? Io non ho mai visitato quelli all'estero. Tendenzialmente no, aumenteranno però, diciamo che sta aumentando la definizione di gruppi di prodotti che saranno di libera scelta di ogni mercato, e questa qua è una novità degli ultimi due anni. Quindi più vicini, diciamo così, agli acquirenti che abitano in quella nazione, ovviamente. Sì, esatto. Ecco, questa è una nuova impostazione. La vedremo che con i televisori che comincerete a vendere in qualche negozio, di forse anche italiano, allora non in tutti però. E volevo chiudere di bussolo con una notizia di oggi. Oggi è la giornata della Terra, e così mi è venuto in mente, avete un menù speciale oggi, vero? Sì, con il WWF abbiamo dei menù biologici, ad un prezzo molto contenuto sarà possibile assaggiare questi menù biologici che hanno per l'appunto lo scopo di avvicinare i consumatori, dato che noi comunque facciamo transitare grandi masse di consumatori a questa tipologia di prodotto dell'agricoltura, però è uno sforzo che poi noi non limitiamo solamente in questa giornata, abbiamo all'interno del nostro assortimento di cibo appunto per i visitatori un sacco di referenze di questo tipo, per cui per noi è una cosa coerente con tutta l'impostazione che ci siamo dati di attenzione all'ambiente. Ecco, bene, quindi continuate così. Intanto ci avete fatto conoscere anche la salsa al mirtillo, che prima noi mettevamo soltanto sul pane. Grazie Valerio Di Bussolo. Grazie. Grazie a lei. Grazie. Buona domenica, grazie. Tommaso Labranca, ciao, buongiorno. Buongiorno a te, come va? Bene, bene. Hai qualcosa IKEA a casa tu? Integralmente, ecco. Io sono monomarca a casa mia. Altro per... Quindi, insomma, beh, sei lì. Allora, Tommaso, tu hai scritto tante cose, tanti libri, anche tante, tanti libri dedicati a personaggi del mondo della musica, un settore che conosci molto bene, ma non soltanto, perché hai scritto anche molti saggi. Però volevo invece con te parlare proprio di musica. E io ho cominciato facendo ascoltare Sognando la California di Dick Dick, no? Perché negli anni 60 si usava prendere grandi successi americani e tradurli poi in italiano. Con successo, devo dire, perché erano comunque fenomeni anche da noi, meglio in italiano. Poi ci siamo un po' spostati, adesso non si traduce quasi più niente, succede proprio raramente, non è più un'usanza, ma noi siamo ancora esterofili dal punto di vista della musica. Cioè, la musica straniera, americana, non lo so appunto poi di quale nazione è ancora più bella della nostra. Ma sai, noi non siamo mai stati esterofili, noi siamo sempre stati soltanto anglofili, perché in realtà un esterofilo è uno che si mette a guardare tutto ciò che avviene all'estero. Sì. In realtà, se proponi qualcosa che arriva dal Belgio piuttosto che dalla Bielorussia, non sia mai, certo, no, zero. Si ride subito perché lo si considera di livello inferiore, e devo dire la verità che spesso lo è. Perché adesso hai appena finito di parlare di Svezia, sì. La Svezia per anni ha guardato l'Italia come un punto di riferimento. Cioè, noi che oggi, cioè io lo facevo già tempo fa, adesso tutti i fighetti dell'ultima ora impazziscono per gli ABBA, per Mamma Mia e così, cose del genere. Ebbene, e le due cantanti degli ABBA hanno sempre confessato di essersi ispirate a Rita Pavone. E la stessa Anifrid degli ABBA ha inciso in svedese le canzoni di Orietta Berti, per dirti, ecco, come esiste al contrario la cosa. Guarda, mi viene in mente, leggo un messaggio di William di Pistoia che scrive: la cosa peggiore è quando acquisti qualcosa prodotto all'estero ma senza sapere che magari è stato inventato o progettato in Italia, no? Ecco. È un po' quella cosa lì. Ci piacciono gli ABBA, però loro sono ispirati a Rita Pavone, che direi molto italiana. Che è assolutamente italiana. Sì. E negli anni 60 si era anglofili senza saperlo, nel senso che serviva un suono nuovo che andasse contro il suono classico e melodico italiano, però non c'era una grande conoscenza, non arrivavano i dischi direttamente dall'America, era difficile, per questo poi si facevano le versioni italiane. Oggi che invece arrivano prima qua forse, sì, che lì, naturalmente il mercato italiano non esiste quasi più. C'è una bella differenza tra, a livello popolare, quelli che ascoltano solo musica italiana e quelli che ascoltano solo musica americana o comunque inglese, senza rendersi conto di una cosa, che la musica italiana oggi non esiste più. Perché se tu senti quelle radio che fanno soltanto musica italiana, senti parole italiane, ma i suoni, le produzioni sono assolutamente internazionali, perché ormai gli strumenti che si usano sono uguali dappertutto. Ecco, direi anche un po' meno male, da un certo punto di vista, no? Sì, meno male, però non ti rendi conto di certe cose, perché sì, se tu ascolti la Pausini non è più italiana, la Pausini è una grande produzione internazionale che può usare lo stesso software musicale, lo stesso anche software mentale che si usa per Céline Dion, per dirti. Per cui siamo esterofili da questo punto di vista, nel senso che vogliamo rinunciare a una nostra tradizione senza sapere che quella è la nostra forza, perché poi all'estero chi è che è successo? Sono successi i cantanti più vicini alla melodia. Sì, cioè, assolutamente, sì, è così. Appunto la stessa Pausini o Ramazzotti, cioè quelli che a noi sembrano gli eredi di Nilla Pizzi e Claudio Villa, all'estero vanno di più, oppure il caso eccelso, Bocelli. Bocelli che si rimette a fare Beniamino Gigli, in America impazziscono, mentre da noi già va un po' meno, cioè li abbiamo recuperato quando ha avuto successo all'estero. Questo è un altro tipo di esterofilia di ritorno. Sì. Se è successo all'estero, allora sei bravo, altrimenti no, sei un cantantino. Questo purtroppo avviene anche per il teatro, per esempio. Mi viene in mente, per esempio, Arturo Bracchetti, che è grandissimo italiano, considerato il trasformista per eccellenza in tutto il mondo, oggi riempie i teatri anche in Italia, ma perché li ha riempiti nel resto del mondo. Ecco, e quindi questo avviene anche per varie arti. Sì, era successo anche negli anni 60, 50 e 60 con la compagnia dei Gobi, il teatro dei Gobi della Valieri, per esempio. Ecco, Tommaso, non so se lo sai, ma invece all'estero come sono? Sono un po' meno anglofoni oppure lo sono comunque? Cioè, diciamo che è un po' globalizzato questo piacere dell'ascolto della musica cantata in inglese, diciamo così, e anche suonata. A me piace molto esplorare i territori ignoti della musica, sì, soprattutto al momento il clou è l'est. i paesi dell'est possono, cioè i paesi dell'ex blocco orientale, intendo, offrono delle cose meravigliose e sono tutti, non cantano mai in inglese, tranne quando vanno all'Eurofestival, dove comunque hanno una aperta internazionale, cantano sempre nella lingua locale, che va dal rumeno appunto all'ucraino a qualunque cosa, ma i suoni sono un misto di tutto quello che è successo negli ultimi 30 anni nella musica, perché hanno dovuto recuperare molto dopo il famoso crollo del muro eccetera, hanno dovuto recuperare molto, per cui senti dei pezzi musicali molto zumpa zumpa che hanno dentro cose americane tipo finti rap, cose italiane tipo finta musica techno riminense, tutte mescolate poi a strumenti locali. Per cui vengono fuori dei prodotti assurdi che in Italia non arrivano perché proprio non incontrano il nostro gusto, sono praticamente la marmellata dei lamponi sulla carne, per sì, esempio. Siamo prima. Ecco, per cui non incontrano il nostro gusto e non li conosciamo. Però all'estero sono forse più esterofili di noi, soprattutto in questa parte di mondo, diciamo, nella parte orientale. Stranamente succede la stessa cosa in Inghilterra, perché c'è tutta una produzione inglese che da noi non arriva, che è il melodico inglese, sono cantanti melodici come i nostri, e che cercano di fare gli americani, per cui il punto di riferimento dopo tanti e tanti anni resta ancora l'America più che l'Inghilterra. Ecco, il country che cosa vive in questo periodo della sua storia? Che è un canto tradizionale americano che non è mai riuscito però a imporsi, no? No, il country no, perché prima di tutto è cantato in maniera incomprensibile, alle nostre orecchie sembra sempre uguale, col band, sì, queste cose. Poi è un mondo che non ci appartiene, poi voglio dire, perché dobbiamo ascoltare il country quando possiamo ascoltare, cioè, il nostro folk? Io sono assolutamente concorde, e proprio su questo, per chiudere, Tommaso, volevo chiederti, l'iniziativa francese, quella di obbligare le radio a trasmettere una grande percentuale di musica francese rispetto a quella estera, funziona per affinare le orecchie dei francesi oppure anche a tutt'oggi i giovani preferiscono le canzoni americane? Queste cose dei francesi che vogliono imporre la loro cultura, quando appunto non si può usare il termine computer e così via, le trovo veramente deleterie, anche questa qui musicale è deleteria, perché veramente limita la libertà delle persone. Comunque non viene ascoltata, perché anche i ragazzi francesi alla fine sì, sono come i nostri, ascoltano essenzialmente musica americana e vogliono quel tipo di musica, perché poi i francesi sono ancora più melodici di noi, cioè la musica francese leggera è una delle cose peggiori che siano state prodotte al mondo, lo dico senza veramente vergogna, dovrebbero vergognarsi loro anzi di quello che producono. Allora, in ordine d'ascolto abbiamo prima gli americani, gli inglesi sicuramente e poi arrivano gli italiani, ecco, diciamolo. Esatto, e poi arrivano gli italiani e poi arrivano le produzioni misteriose, che sono appunto quelle tipo la discoteca, che non sai dove sono state fatte perché sono completamente identiche. Sì, fatte... quello è un capitolo a parte che non vorrei neanche toccare, guarda, perché salto dalla sedia, per cui, perché è un po' cambiata quella musica dai tempi invece della disco music degli anni 70 e 80, ma è un'altra cosa, assolutamente un'altra, ne parleremo. Grazie Tommaso Labranca, buona domenica. Grazie, ciao. Ciao, grazie. Gli aggiornamenti sul traffico. Poi c'è la nostra Francesca Dragotto, la nostra glottologa, perché noi dal mondo abbiamo importato tante parole e tante le usiamo magari senza rendercene conto. Il riposo del guerriero. Francesca, buona domenica, ciao. Buongiorno e buona domenica. Ti leggo un messaggio. Per quelli della mia generazione, io ho la laurea in anglo-americano, non si tratta di esterofilia, ma l'impatto forte che ha avuto l'altra cultura, la controcultura degli anni 60 e 70, che ci ha segnato profondamente. Ancora ora, per me Londra resta un luogo dove posso trovare cose introvabili. E qui poi comincia l'elenco. Francesca, noi dal mondo americano-inglese abbiamo preso tante parole, ma alcune magari non ci ricordiamo neanche più che arrivano da lì. Esattamente, la bellezza di questo argomento consiste proprio in questo, nel fatto che di molte parole siamo consapevoli, quindi del fatto che si tratti di una ripresa, mentre ormai altre sono state talmente tanto integrate nella nostra lingua da non apparire più straniere. Pensiamo a standard, proprio dall'inglese, è un'espressione che troviamo intorno alla metà del Settecento per indicare in Inghilterra e in America un oggetto di pregio, per cui che può servire da modello, da tipo, da sistema di misurazione. Ora, oggi per noi standard è un qualcosa che fa parte della nostra cultura, anzi citiamo continuamente delle cose standard. Certo. Per cui, insomma, è un termine italiano. Fa parte della nostra vita. Poi ci sono anche le parole invece italianissime che arrivano dal latino ma che pensiamo siano americane. Faccio l'esempio di media, ecco che... Sì. C'è tutta quanta una questione sulla pronuncia, certo. Medium, media, medium, media, il problema sta nel fatto che prima c'è quel mass che lo rende per metà latino e per metà anglofono, per cui si può anche dire media, però nel momento in cui metto prima mass, per mezzo di comunicazione di massa, intendo dire, sì. È difficile dire mass media, anche se sinceramente chiunque abbia studiato il latino è chiaro che salta almeno inizialmente nel momento in cui sente dire media. Ecco, quali sono le altre parole che abbiamo preso in prestito, che ormai ci appartengono? Ne abbiamo migliaia, sì, però a premessa di tutto, sì, veramente migliaia. Poi farò, visto che dopo c'è il collegamento con il gastronauta, farò degli esempi tratti dall'ambito dell'alimentazione. Sì. Però credo che sia necessario fare una premessa. In sé nessuna lingua ha bisogno di ricorrere ai prestiti, perché ogni lingua dispone di tutto quanto il materiale necessario per poter coniare nuovi termini nel momento in cui ci si trovi a contatto o con un elemento del tutto nuovo o con un qualcosa che, benché già conosciuto, si sente come nuovo. Penso al caso di boutique. Boutique in francese indica il negozio. Noi per negozio abbiamo una parola di origine latina, nec otium, appunto, che ha dato negozio, però visto il forte prestigio che il francese ha esercitato e tuttora, sebbene in un numero di ambiti più ristretto, continua ad esercitare sulla nostra lingua, abbiamo ripreso il termine boutique, utilizzandolo però per indicare dei negozi di lusso. Certo, addirittura siamo arrivati anche a nominare la boutique della carne, per esempio, che solo a sentirlo rabbrividisco, ovvio. Cioè. Esattamente, quindi questi li potremmo anche chiamare prestiti di lusso, quindi prestiti non necessari, però anche quando si tratta del contatto con un nuovo prodotto, come può essere stato con quella che abbiamo deciso di chiamare la patata, la banana, in sé non avremmo avuto la necessità di recuperare anche il termine con cui quel prodotto ha viaggiato fino ad arrivare a contatto con noi. Avremmo potuto fare quello che hanno fatto altre lingue, pensiamo ad esempio nel caso della patata, a pomme de terre, che è il termine corrente nel mondo francese. Sì. Il termine indiano, quindi potati, sembra essere appunto indiano d'America, e noi lo abbiamo recepito attraverso la mediazione dello spagnolo. Invece, proprio per far vedere come la storia dei prestiti sia magmatica, prendiamo il termine, sempre per patata, del tedesco, Kartoffel. Sì. Ecco, quel termine è un italianismo, quindi anche noi abbiamo ceduto. Si tratta dell'adattamento di tartuficulo, che appunto ha a che vedere con il tartufo, con il tuo, per il tubero, sì. Esattamente, terri tuberum, letteralmente, il tubero di terra. E appunto per lo stesso termine ci sono storie differenti che in alcuni casi hanno portato alla ripresa pedissequa, quella che chiamiamo proprio termine prestito in senso stretto, in altri casi a una rielaborazione, cosa che noi abbiamo fatto col pomodoro. Non abbiamo recuperato la base azteca, quella che ha dato tomate o tomat in spagnolo e in francese rispettivamente, ma abbiamo deciso di ragionare per via metaforica, e avendo la mela come elemento di confronto abbiamo chiamato mela d'oro il pomodoro, perché somiglia ad una mela quando d'estate è maturo e colpito dai raggi del sole. Ecco, io vorrei essere lì nel momento in cui una parola nasce, in questo caso una parola che nasce proprio. A un certo punto qualcuno ha cominciato a chiamarla così, e questo qualcuno ha fatto in modo che la parola venisse usata e poi è diventata comune. Ma c'è un inizio per forza. Il significato di nascita delle parole, diciamo che se c'è, è difficilissimo da trovare. Immagino, però l'avranno anche chiamato in un altro modo, in altre parti, sempre dell'Italia, e poi alla fine però se ne è imposto uno. Beh certo, ma anche se andiamo a vedere la realtà dialettologica italiana, ci accorgiamo che in diverse aree dell'Italia centro-settentrionale, invece che patata, quello stesso elemento continua ad essere chiamato con delle continuazioni di pomo di terra, di mela di terra. E ovviamente poi, come abbiamo detto tantissime volte parlando della lingua, non esiste una lingua, esistono tante varietà di lingua, e poi da una parte l'uso, dall'altra una sorta di norma che può essere decisa per ragioni che nulla hanno a che vedere con la lingua, perché spesso l'individuazione di un modello appunto standard di riferimento risponde a logiche più politiche, sociopolitiche, culturali che non linguistiche. E allora queste ragioni extralinguistiche decidono che una variante debba rappresentare lo standard, il riferimento per tutti, a partire da quel momento quella forma inizia a diventare appunto di riferimento, senza però riuscire nell'uso vero a soppiantare le altre. Ecco. La variabilità è un qualcosa che è connotante della lingua ed esiste a tutti i livelli. Volevo chiudere quest'ultimo minuto con te con questa domanda. Allora, i francesi utilizzano molti termini francesi non adattandosi a quelli invece inglesi. Computer, l'abbiamo citato prima con Tommaso Labranca, ne è un esempio, no? L'ordinateur, poi c'è il software che si chiama le logiciel, eccetera eccetera. E secondo te questo allontana o avvicina in un mondo ormai multilingue e un po' globalizzato? Non posso che rispondere dipende, perché in sé la ripresa pedissequa del termine straniero denota una scarsa attenzione per la propria lingua, perché generalmente se appunto decidiamo di abbandonare la possibilità della nominazione autonoma per ricorrere a quello che hanno fatto altri, è perché quell'altra lingua ci appare di grande prestigio. In un mondo globalizzato però, probabilmente almeno per certi tipi di tecniche, sì. Allora in sé non ci trovo nulla di male nella ripresa del termine. Se no, termine straniero. Da domani useremo il calcolatore elettronico. Grazie Francesca Dragotto, ci sentiamo domenica prossima, ciao. Grazie a voi, buona domenica. Il riposo del guerriero. 11 e 7 minuti, ancora buona domenica da Stefano Gallarini, continua il riposo del guerriero. Quanto siamo esterofili, quanto ci piacciono le cose che arrivano dall'estero, arrivano anche tanti vostri messaggi, non riesco a leggere adesso, però vediamo di capire cosa ci piace dell'estero, per esempio quando viaggiamo. Paolo Alessio è web editor di lonelyplanetitalia.it. Ciao Paolo, buona giornata, buona domenica. Buongiorno Stefano, buongiorno guerrieri in ascolto. Allora, che cosa cerchiamo quando fuggiamo dall'Italia? Perché scegliamo una meta straniera senza goderci le bellezze del nostro paese? Ma forse la scegliamo la meta straniera anche per goderci meglio le bellezze del nostro paese. Speriamo. Provo a spiegarvi. Nel senso, sì. Gli italiani quando viaggiano, io mi baso sull'esperienza degli ultimi 20 anni, perché da 20 anni abbiamo le guide Lonely Planet in italiano. Sì. No? Ecco, allora gli italiani quando viaggiano esprimono due delle loro grandi caratteristiche nazionali, che sono la creatività e l'empatia. Gli italiani vogliono essere autori del proprio viaggio, è per questo che usano in qualche modo guide di viaggio come le nostre, e manifestano nei paesi in cui vanno questa loro grande capacità, se vogliamo, autoriale e creativa. E poi hanno anche una grande capacità di entrare in empatia con le culture che visitano. Ed è per questo che sono così attratti da quella che in inglese, tanto per tornare a quello che dicevate prima, si chiama social life, e cioè le feste, le tradizioni, gli esoterismi, le culture, tutte le manifestazioni dei popoli che non sono il proprio. E poi tutte queste cose che imparano hanno anche il piacere di comunicarne, perché gli italiani in qualche modo, come dice il vecchio adagio, sono anche dei poeti. E sul nostro sito, per esempio, sull'Unità d'Italia, hanno modo di partecipare inviando commenti, inviando post sul forum e via dicendo. Poi ovviamente hanno anche una loro costellazione di riferimento, come tu puoi immaginare Stefano, che sono le grandi città europee, oppure paesi come l'Islanda, la Norvegia, anche il Messico, ecco, ma non voglio parlare soltanto io, eccomi qui. Ecco, no, beh, ti stavamo ascoltando, perché comunque, vabbè, poi il piacere quando si viaggia, ovviamente, il problema è sempre questo, che si va all'estero perché uno dice l'Italia tanto ce l'ho qua, è porta di mano, sono italiano, per cui tra virgolette la conosco, che poi non è assolutamente vero, no? Perché l'Italia è talmente difficile da conoscere, perché è pienissima di posti da scoprire, piccole realtà, no? Invece magari davvero quando vai in Svezia e hai visto qualcosa, non dico hai visto tutta la Svezia, ma quasi, no? Perché è molto simile. Adesso ho preso la Svezia come esempio, gli Stati Uniti sono un'altra realtà ancora. Se vai a New York certamente non è come essere andati a Los Angeles, sono due realtà certo, completamente diverse, certo. Quindi insomma conoscere il proprio paese è molto difficile. Allora amiamo un po' andare all'estero perché ci sembra proprio di viaggiare nel vero senso della parola. C'è ancora questa voglia o anche l'Italia finalmente, ecco, è tra le scelte degli italiani alla fine andare in Italia? Beh, la voglia per l'estero c'è ancora. Sempre, comunque. Sì. Sì, e non è un caso se noi da domani lanceremo sul nostro sito un concorso che metterà in palio proprio 6 grandi viaggi all'estero. Qual è il posto più ambito? Allora, il posto più ambito è il posto della felicità, se vogliamo dirlo. Però nel senso che la bellezza del viaggio è proprio il pluralismo, quindi io non mi sentirei di eleggere un posto sì. più degli altri. Potrei fare degli esempi, per esempio una terra fantastica è il Messico, proprio in questo anno di cultura maya legato a questo mito un po' finto del lungo conto dei maya e della fine del mondo. Io non sono un maya, ma posso dirvi tranquilli, il mondo non finirà. Ah, l'abbiamo già scoperto, l'abbiamo già capito da tempo. I maya non l'hanno mai detto, ok? È forse un mito più new age legato all'aura nera del numero 13 nella cultura americana. Ma poi un altro posto fantastico più vicino è l'Islanda. In Islanda, per esempio, si ha la possibilità di fare immersione nella faglia, tra le due faglie, quella europea e quella nordamericana, che uniscono i due continenti. Questa è sicuramente un'esperienza fantastica, al di là di tutta la bellezza che dà entrare in contatto con un popolo come quello islandese, che è molto lontano dal nostro. Ecco, francamente io all'Islanda non avevo mai pensato, adesso non so, ci farò un pensiero, ma mi sa che sceglierò l'Italia io quest'anno ancora. Vabbè. Ma la scelta è ottima, d'altronde anche se guardiamo tra le preferenze dei nostri viaggiatori, vediamo che regioni come la Puglia, che sta investendo moltissimo sì. nel promuoversi, oppure la Sicilia, che è stata addirittura scelta da noi di Non Italia come regione una delle 10 regioni del 2012, sono sicuramente tesori fantastici. Ecco, ma la bellezza dell'Italia è che tu esci dalla tua città oppure ti allontani di qualche chilometro dal posto in cui vivi e fai continue scoperte, questa è una cosa meravigliosa. Infatti è così, mentre una volta quando si rimaneva in Italia non si aveva neanche la sensazione di viaggiare, cioè il viaggio era considerato solo all'estero, invece oggi finalmente in questo senso siamo cambiati e devo dire in meglio. Grazie Paolo Alessio, buona domenica, Stefano. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Allora c'è il nostro inviato, sono il mobile di Milano, Fabio Pisano, ciao Fabio, buona domenica. Ciao, buona domenica a voi e anche agli ascoltatori, ecco, naturalmente. Noi ti abbiamo mandato un po' in giro per scoprire cosa c'è di estero in quello che viene prodotto in Italia, perché ormai un po' c'è questa commistione, no? Abbiamo parlato la settimana scorsa di marchi italiani che sono imposti nel mondo con un design tutto italiano, ma in realtà grandi designer stranieri lavorano per case italiane con grande successo, quindi c'è un po' unione delle cose. Tu cosa hai scoperto, Fabio? Io ho scoperto che ovviamente anche tante case italiane hanno scritturato, per così dire, i migliori designer stranieri. E girando però, la cosa che mi ha incuriosito di più è il taglio che ho voluto dare sì. diciamo, a questo intervento, è un taglio un po' nuovo. Io sono stato al Salone Satellite, che forse come sapete è quello dedicato agli under 35, quindi i designer di domani, i grandi nomi, le grandi firme di domani, e ho notato una cosa che non poteva non colpirmi: sono tanti di più i designer stranieri, cioè gli italiani sono in netta minoranza, quindi ho detto, cavolo, siamo la patria del design e dello stile, ma forse questa tendenza cambierà perché i ragazzi stranieri stanno imparando e stanno dettando un nuovo trend, diciamo. Ecco, bisogna vedere se questi ragazzi stranieri studiano in Italia, perché per molti penso che sia proprio così. Questa non svegliamo subito. Ah, va bene, ok. Storia. No, io ho sentito Ilaria Innocenti, che è una giovane designer italiana, e che era un po' smarrita in mezzo agli stand di olandesi, venezuelani, cileni, e le ho chiesto insomma come mai c'erano meno giovani italiani rispetto agli stranieri e se è più difficile adesso emergere con tutta questa concorrenza ormai globalizzata. Sentiamo cosa dice Ilaria. Devo dire che siamo in pochi qua al Salone Satellite, siamo pochi italiani, infatti siamo riusciti anche a fare un mini gruppetto per verificare un attimo le nostre capacità e i nostri risultati dopo questa fiera che per noi è comunque molto importante. E credo che in Italia ci sia il problema che ci sono tanti nomi importanti e di designer importanti, ma che sono ormai dei big del design. online, e quindi l'italiano fa fatica a crearsi, l'italiano, il giovane italiano designer fa fatica a crearsi un proprio spazio. I nomi importanti del design delle aziende sono soprattutto italiane, e poi probabilmente avere un nome esotico, che sia giapponese piuttosto che olandese, che sono ormai quelli che hanno in mano il design, così può darsi che portino poi, insomma, più vendite del prodotto e che attirino, insomma, più pubblico. Ecco, alla fine sempre di vendita si tratta, no? L'esotico ha sempre il suo fascino, almeno secondo lei. Ha il suo fascino, però, come dicevi tu giustamente all'inizio, c'è il trucco, nel senso, tutti i più grandi designer, anche quelli con cui abbiamo chiacchierato quest'anno, ma anche negli anni passati, nelle edizioni passate dei saloni, da Karim Rashido, Kita, Mark Sadler, è tutta gente che ha passato in Italia decine anni, sia come studi, come impostazione, e magari lavorando per aziende italiane che in questo senso erano state dei talent scout e avevano avuto l'occhio lungo, e di questo trucco, di questa prospettiva parla di nuovo Ilaria. Abbiamo fatto poi una domanda, diciamo, chiedendo se invidia qualcosa questi colleghi. Sentiamo le sue risposte. Beh, si sa che comunque il design è tutto italiano, è partito da qua, e dovremmo riuscire, insomma, a portare, al di là del Made in Italy, anche i nuovi nomi di giovani nel mondo. La tradizione e le capacità, l'inventiva sono, diciamo, dalla tua parte in quanto giovane designer italiana. C'è qualcosa che invidi come mentalità, magari, o come ispirazione ai colleghi stranieri? Credo che comunque ogni nazionalità abbia dei particolari. I giapponesi sono molto razionali, gli olandesi hanno una grande artigianalità, quindi credo che, insomma, possiamo convivere tutti insieme e avere ognuno una propria caratteristica, ecco. Ecco, cercando anche di mantenere alla fine, insomma, questo primato meno dell'insegnamento, no Fabio? Poi è ovvio che le teste pensanti sono sparse in giro per il mondo ed è giusto che ci siano, che sia così, che però vengano qua in Italia a studiare a questo punto, no? No, è chiaro, se posso aggiungere una cosa, sì? Che insomma ho visto negli stand che sono poi dedicati magari alla cucina piuttosto che al bagno, là dove l'innovazione conta magari un filo di più rispetto al disegno e quindi all'arte anche di un grande designer, sono comunque molto molto apprezzate anche da noi italiani. Per esempio, non so, la precisione tecnologica dei tedeschi o degli svizzeri, quindi insomma l'italiano poi non ha pregiudizi e si rivolge all'estero quando sa che si tratta di un interlocutore, diciamo, estremamente affidabile. Ecco, sì, perché forse prima gli italiani, fino a qualche decennio fa, prendevano dall'estero semplicemente perché era straniero, invece oggi prendono solo quello che piace e che va bene, quindi devo dire un bel cambiamento, in fondo lo diceva anche Finzi prima. Ti ringrazio ancora Fabio, buona giornata. So che buona oggi giornata a voi. Ecco, ci sarà un altro ospite ieri Monti ha sorpreso, oggi un altro ospite che sarà lì al salone, quindi sicuramente lo intervisterà. Il gastronauta. Allora, abbiamo importato l'hamburger, il sushi, poi non so cos'altro. Ciao Davide, buongiorno. Buongiorno a tutti, sono in una libreria, ecco, a Verona, sì? Dove sto appunto presentando dei libri, quindi sono, non c'è niente di straniero, però possiamo parlare di esterofilia sicuramente. E hai già nominato, ho sentito sushi, che sicuramente è la prima forma di esterofilia ormai non solo italiana, ma credo un po' nel mondo. Ma io sto, proprio ieri ho fatto una trasmissione che dimostra un'altra esterofilia che sta prendendo piede. Ho parlato del cake design, che è questa forma appunto di, come posso dire, abbellire le torte, disegnare le torte, e che arriva direttamente dagli Stati Uniti e arriva addirittura proprio dalla televisione. C'è un boom televisivo americano che piano piano si è trasferito, è arrivato anche in Italia, e ieri abbiamo messo così a nudo questo fenomeno, che addirittura conta un'associazione italiana cake design, conta un festival, e quindi ormai è un, come posso dire, è un fenomeno esterofilo di, non dico pari al sushi, in realtà. Non dico che fa i danni che fa il sushi, ma quasi, insomma. Perché fa i danni? Beh, fa i danni perché, insomma, sono torte che sono abbellite col polisterolo, con il legno, sono semplicemente in larga parte torte visive, anche se molti sostengono che sono buone, ma insomma c'è una scuola forse italiana che verrà fuori la distanza, ma innanzitutto sono forme abbastanza che vanno bene per l'occhio e molto bene meno per il gusto. Ecco, ma a cosa servono da quel punto di vista? Solo ad appagare appunto l'occhio? Sai, sono ad esempio nei matrimoni che si possono fare torte enormi, grandissime, sì. Anche nelle feste. Sono giochi anche per i bambini, anche i bambini credo che siano così divertiti da questi colori, da queste forme, da queste grandezze inusuali, quindi c'è un appagamento sicuramente dell'occhio e speriamo che piano piano anche la qualità non sia quella americana, perché l'americana è abbastanza piena di additivi e di altre cose, insomma speriamo che ci sia come sempre una via italiana anche su questo. Vediamo se la troveremo questa via. Ma devo dire che sì, la terza via politica ancora non l'ha trovata nessuno, quindi speriamo che noi troviamo la seconda via sul cake design. No, volevo altre forme di esterofilia, sicuramente ci sono anche forme che sono positive dal punto di vista della gola, ad esempio lo champagne. Cioè, lo champagne sicuramente, i consumi italiani sono sempre molto, molto alti, però io non li disapprovo assolutamente. Insomma, li approvo come? L'altra forma di esterofilia che sta prendendo sul cibo è sicuramente jamón ibérico, ovvero sia il prosciutto spagnolo, che ormai sta veramente imperversando, insomma, in un paese che ha 8-10 aree d'Italia che producono grandissimi prosciutti. Ecco, quindi, però in questo caso, come dicevo prima, si sceglie per la qualità del prodotto, cioè prima invece magari si sceglieva semplicemente perché era straniero, no? All'inizio il sushi si andava perché era di moda, voglio dire, invece forse adesso oggi invece si sceglie, altrimenti non si va. Credo che un po' in questo senso le cose sono cambiate anche per quanto riguarda l'enogastronomia. Bah, sai, sì, certamente, ma forme così pacchiane, devo dire, di esterofilia è difficile riscontrarle, perché altre forme sono il caviale, sono il salmone, però devo dire che ci sono anche caviali e salmone di grandissima qualità, quindi diciamo che per quanto riguarda ad esempio il caviale, dopo il grande boom del caviale straniero, ora c'è un caviale tutto italiano e forse lo si deve proprio a questa forma di esterofilia che ha creato questa domanda. E quindi sicuramente ora c'è anche la trota affumicate discrete in Italia, quindi anche questo forse lo si deve forse per una forma di imitazione verso il salmone. Sai, prima hai parlato di hamburger, oggi ci sono degli hamburger fatti dai grandi chef italiani e in molti ristoranti che sono eccellenti, quindi anche qui diciamo che questa forma è servita probabilmente. Certo, prendiamo ma reinventiamo, ecco che sarebbe meglio visto così. Reinventiamo secondo il nostro gusto. Beh, certo che ci sono anche delle cose insomma che continuano ad arrivare dall'estero. Io mi ricordo che tanti anni fa c'era musica in cucina della cucina tedesca, insomma, se Dio vuole non l'abbiamo reinventata, ma l'abbiamo rispedita nel tempo. Per qualche cosa è necessario assolutamente farlo. Grazie Davide, ti lascio la presentazione dei libri e ci sentiamo poi la settimana prossima. Buona domenica. Presto. Ciao, presto. grazie. E concludiamo prima del mistero in 24 minuti con il nostro Enrico Groppali. Ciao Enrico. Ciao Stefano, come va? Bene, benissimo. Allora, parliamo di cinema. In questo senso io avevo così accennato a Vinicio Marchioni, che ha interpretato Romanzo Criminale, e si lamentava molto su Twitter. Diceva, dovete scegliere il cinema italiano, perché se non scegliete il cinema italiano morirà. E lui aggiungeva questo, dice, per esempio Diaz, Romanzo di una strage, i più grandi di tutti, sono film che vanno visti, e invece mancabilmente il film italiano lo si sceglie un po' come seconda possibilità, no? Poi sì, purtroppo è vero. È ancora così. Sono perfettamente d'accordo con lui. Ti volevo leggere anche un messaggio di Enzo di Milano che dice i film italiani non è che si può continuare a vedere film sulle crisi esistenziali dei giovani 30-40enni. Il cinema è anche spettacolo, ma sono rari i film spettacolari. Non parlo di effetti speciali, dice semplicemente con storie un po' diverse, più appunto spettacolari, aggiungeva Enzo. Allora, dove sta la verità? Cioè, ancora è vero che le nostre storie sono sempre un po' quelle, quindi ci hanno un po' stancati, oppure secondo te la realtà è un'altra? Ma c'è il fatto che gli americani, dopo un grande periodo, diciamo anche di depressione, di mancanza di idee, di originalità, eccetera, eccetera, hanno perfettamente colto il significato profondo, anche positivo e non solo negativo, della parola globalizzazione, per cui i loro film, oltre a tutto, non è che ci parlino soltanto o semplicemente dell'America, nonostante ci siano dei film che specificamente si rifanno a eroi, sia in senso positivo che negativo, dell'immaginario storico americano. Vediamo per esempio il famoso Milk sull'agitatore politico americano gay interpretato da Sean Penn, che gli ha valso il secondo Oscar, ma anche per esempio i film come dedicato a Hoover, che ha visto una grande interpretazione di Leonardo DiCaprio, il quale oltre a tutto qualche anno fa ha interpretato il ruolo di Howard Hughes, il grande miliardario pazzo amante del cinema, in The Aviator. Però si sono spostati, diciamo così, su una internazionalizzazione del loro prodotto. Per esempio, noi non riusciremmo mai a realizzare, per esempio, nella nostra Italia un film tipo Into the Wild, Nelle terre selvagge, che a Sean Penn, ancora lo cito per la seconda volta, ha fruttato il primo Oscar, e nemmeno degli attori che in qualche modo rappresentano le bizzarrie, l'incostanza e insieme la profonda differenza che c'è tra il nostro prodotto, che è ancora tipicamente, non dico piccolo borghese, ma ancorato alla nostra realtà, è quello che invece si apre a una realtà proprio multimediale. Pensiamo per esempio alla strana coppia, che ha molto successo, formata da Brad Pitt ed Angelina Jolie, perché addirittura con lui che non rinnega le sue origini proprio di gigolò per signora, eccetera, eccetera, e lei che da quando si è unita a lui dopo due divorzi non rinnega il fatto della propria bisessualità, ma non solo, di avere portato per anni appese al collo dei flaconcini con il racchiudenti il sangue addirittura di suo fratello, con il quale si diceva avesse un rapporto che andava al di là della fraternità. E tutto questo ci riporta proprio a quella che era le origini del cinema americano, soltanto che le origini del cinema americano, del divismo, di Teda Bara, addirittura del muto, eccetera, eccetera, era il genio e la sregolatezza, mentre adesso è diventata la regolatezza della sregolatezza, in un certo senso. Gli attori sono bravissimi, e non solo, sono bravissimi anche nel mescolare proprio il loro privato a un'accettazione di tutte le diversità possibili. Il paesaggio diventa per esempio un paesaggio urbano che dagli Stati Uniti praticamente si riversa su di noi, anche nella loro vita privata. Pensiamo alle ville di Giorgio Clooney, che ne ha comprato addirittura 4 in quel di Como, e quindi ai vestiti di Armani, di cui si abbiglia Leonardo DiCaprio, al film The Tourist, che ha avuto un grande successo di pubblico e una pessima accoglienza da parte della critica, in cui gli attori, i divi del cinema americano, si divertono a rifare Hitchcock in senso addirittura ironico. Da un certo punto di vista invece non c'è l'importazione da parte di loro del modello latino, tranne Penelope Cruz e Antonio Banderas, che sono stati adottati dal cinema americano. Praticamente il nostro prodotto interno lordo, parlo dei grandi attori del nostro cinema italiano, non sono invitati a Hollywood, o se lo sono invitati una volta e poi più. Per esempio, sia Raul Bova che Ornella Muti hanno fatto delle esperienze, diciamo così, interessanti, ma non si sono mai identificati con il sistema hollywoodiano, sono ritornati da noi. Ma l'Italia cosa dovrebbe fare per chiudere, Enrico, secondo te, per portare ancora gli italiani a vedere il cinema italiano? Perché ha ragione Marchioni, se non andiamo a vedere i film italiani il cinema muore a un certo punto. Quello ha ragione, ecco. Sì, certo. Dovremmo anche le nostre storie, portato che tutti gli italiani viaggiano, e non solo col pensiero, ma anche proprio con i propri piedi, girovagano per l'Europa, girovagano per gli Stati Uniti, girovagano per il Sud America, eccetera. Dovremmo ambientare delle storie con i nostri attori italiani che vadano proprio al di là dei ristretti confini del nostro bel paese, della nostra penisola. Ambientare delle storie non che coinvolgano degli attori stranieri americani, che coinvolgano la scoperta anche dell'universo della nostra piccola terra proprio da parte degli italiani. Certo, e quindi è un bel movimento. Vediamo Dovremmo anche noi proprio polarizzare la nostra attenzione partendo dall'Italia e abbracciando il mondo. Del resto Woody Allen è appena arrivato, ha finito, poi ha girato è appena arrivato film a Roma, With Love, ed è rimasto incantato dalle possibilità, dal gioco mimico di Roberto Benigni. Non si capivano perché ognuno di loro parlava una lingua diversa, però in un certo senso Benigni è rimasto universale. E probabilmente avrà ancora delle grosse offerte dal cinema americano dopo Down by Law, eccetera, perché è riuscito a dimostrare che attraverso semplicemente la sua mimica stralunata, il suo aspetto strampalato, la sua fisicità che abbraccia praticamente tutto lo schermo, indipendentemente dalle parole che dice e da come comunica attraverso un italiano che è diventato maccheronico, può diventare veramente uno dei più grandi attori del cinema internazionale, perché bisogna andare oltre confine, sì, e dobbiamo fare questo. Confine, senza dimenticare l'Italia. Mai, chiaro. Centro e abbracciando il mondo. Grazie Enrico, ci sentiamo domenica prossima. Buona, va bene, a domenica buona prossima. Giornata ciao, e buona grazie. Settimana. Buona domenica. Un mistero in 24 minuti. 800 24 00 24, alcuni ascoltatori sono già pronti per andare in onda. Volevo così però leggere qualche messaggio che riguarda ancora l'argomento di oggi. Parlavamo delle torte, quelle particolarmente belle, ma scrive un ascoltatore: fanno schifo, ci passano 2000 volte le mani sopra, sono tutto zucchero e coloranti. E invece per quanto riguarda i film c'è chi scrive: è vero, quando è successo, ovvero noi italiani abbiamo preso storie ambientate all'estero, è sempre stato un successo, per esempio Mediterraneo, Marrakesh e altro. Ma adesso giochiamo, ci sono 1000 euro per voi da spendere su libreriarizzoli.it e il primo indizio, eccolo qua. La mia lingua sentirò, quel che dico capirò. Gianna, eccoci qua con il primo indizio, buona domenica. Ciao, buona domenica a te Stefano. Una vecchia canzone dell'Equipe 84, si intitolava sì. Casa mia, sì. E siamo a 1000 euro. Gianna, la risposta, un personaggio o qualcosa di molto conosciuto o una notizia della settimana. Oppure sì. Puoi chiedere un altro indizio, cosa vuoi fare Gianna? Ma mi butto, per Vai. Me il Salone del Mobile a Milano. Grazie, non dico niente come sempre, sai che scopriremo la risposta al 24esimo minuto. Ciao Gianna, buona domenica. Ciao, grazie a te altrettanto. Sara dalla provincia di Parma. Ciao. Ciao Sara. Allora, tu sei troppo giovane, questa canzone non so neanche se... Mai sentita. Ecco, vedi, immaginavo. siamo indietro. Eccoci qua. Allora, forse questa la conosci un po' di più. Il secondo indizio arriva da Siria. Sara, te la ricordi questa canzone? No. Allora, questo fu l'esordio di Siria nel 1995-6, una cosa del genere, e fu la canzone che la fece conoscere al pubblico italiano grazie al Festival di Sanremo. Il titolo è Non ci sto. Poi è molto cambiata, lì era una ragazzina, così adesso è proprio una donna, è completamente diversa e fa anche canzoni molto diverse. Allora, e scrive... Che cosa vuoi fare? Due indizi ne abbiamo. Sono indecisa. Molto. Vabbè, insomma, dico il giorno della Terra, Earth Day, che oggi. Che oggi ne abbiamo anche parlato. Sì. Grazie Sara, ciao. Buona domenica, ciao, grazie. Grazie. Siamo a Marco, ciao, buona giornata da Piacenza. Buongiorno. Ciao Marco, due indizi li abbiamo già usati, siamo a 500 euro, cosa vuoi fare? Io vorrei dare la risposta. Bene, rimaniamoci. Allora, facciamo così, sentiamo i due indizi che abbiamo scoperto fino a questo momento. Casa mia. casa mia, l'Equipe 84, non ci sto, Siria. Ecco i due indizi. Allora, Marco. Ma guarda, io non ho le idee molto chiare, come sempre. Però nei due test ho sentito parlare di treni. Per cui sì, direi la presentazione ufficiale del nuovo treno del gruppo di Della Valle, Italo, credo che si chiami. Grazie Marco, buona giornata, buona domenica. Buona giornata a voi. Andiamo avanti con Andrea da Roma. Buongiorno, ciao. Ciao Andrea, allora, 500 euro sono ancora qua sul piatto, cosa vuoi fare? Ma. Io ho fatto un ragionamento perché casa e 84, ho pensato al Grande Fratello, quindi... c'è stata, però sono anche in dubbio tra due cose. Vuoi un terzo indizio? Ma sì, dai, terzo indizio, dai. Eccolo qua. Devo dire che anche l'interpretazione di Renga, la forza di questa canzone resta comunque, è stata anche interpretata da Mina. La voce del silenzio, questo è il terzo indizio. Allora. Allora io dico che insomma questa notizia di un paio di giorni fa, che il Grande Fratello del fisco sui telefoni, cioè l'Agenzia delle Entrate acquisirà insomma il traffico telefonico. I tabulati. Va bene Andrea, allora chi lo sa che possa essere la risposta giusta, saremo a 300 euro, lo scopriremo solo al 24esimo minuto, ci sono gli aggiornamenti sul traffico. Ehi deficiente, dico a te, sì a te che stai ascoltando la radio, deficiente mi ascolti? Deficiente, deficiente? Guarda che dico a te, deficiente, che non sei altro. Noi di Time LED non ti vendiamo nulla, tranne l'opportunità di diventare efficiente a costo zero. Con il sistema di illuminazione a LED NED System risparmi fino al 70% sulla bolletta. Non fare il deficiente, diventa efficiente. Scopri come su timeled.it. Strade in diretta. A causa di un incidente si formano code sulla 14 Adriatica tra gli svincoli di Rimini sulla carreggiata in direzione Ancona. Sul tratto veneto della 4 un cantiere causa code tra Montebello e Soave in direzione Brescia. Lungo l'autostrada del Sole ci sono delle code per il traffico intenso all'uscita di Firenze Sud sulla carreggiata verso Bologna. Code verso la Svizzera sulla 9 tra Como Monte Olimpino e la dogana di Como Brugeda. Circolazione scorrevole sul resto dei percorsi e ricordiamo che sulla tangenziale sud di Torino è chiuso lo svincolo di Corso Stupinigi fino alle 12.30 per una manifestazione podistica in svolgimento in città. Per il momento è tutto, Strada in diretta torna tra mezz'ora. Un mistero in 24 minuti. Lorella da Roma, buona domenica. Buongiorno. Siamo qui con tre indizi, ormai già andati, siamo a 300 euro. Cosa vuoi fare? Mi butto. Sì? E dico Juan Carlos, il re. Grazie Lorella, buona domenica. Ciao. Ciao Mirella da Brescia. Buongiorno. Ciao Mirella. Dunque io siccome sono indecisa fra due risposte ascolterei un altro indizio. Andiamo a 200 euro allora. Eccolo qui, sì, il quarto indizio. Destino fatale ineluttabile, legame tra la vittima e il carnefice. Ma allora cosa chiedi di meglio? Se a te piace farmi male, legami le mani, legami con doppi nodi all'anima. Mancano 5 minuti alla soluzione del mistero. Stancala. Solo mi farai felice se sarai crudele con me. E se sono prigioniero io mi sento libero. Eccolo qui il quarto indizio. Quando mancano meno ormai di 5 minuti saremo a 3 più o meno. Allora, questa è Crudele di Mario Venuti. Mirella. Sono sempre indecisa fra i due, però a questo punto scelgo il ritorno di Sandra Mariani. la liberazione. Grazie Mirella, buona domenica. Ciao. Grazie. Pierpaola da Torino, buona giornata. Buongiorno. Ciao Pierpaola, verrai a trovarci al Salone del Libro a maggio? Ma probabilmente sì. Bene. Quasi sempre. Allora ti aspettiamo. Allora Pierpaola, che cosa vuoi fare? Abbiamo ancora un indizio se vuoi, oppure puoi dare la tua risposta? No, io fin dal primo indizio allora, aspetta. Avevo un'idea e l'ho mantenuta. L'ha mantenuta. Aspetta un attimo, sentiamo i quattro indizi che abbiamo scoperto. Casa mia, devo ancora andar via. Ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me. Solo mi farei felice se sarai crudele con me. Casa mia, l'Equipe 84, non ci sto, Siria, la voce del silenzio. Renga, crudele, Mario Venuti. Questi quattro indizi, dicevi, Pierpaola. Allora, per me è l'IMU sulla prima casa, che è stata rateizzata in tre tranche. Grazie Pierpaola, ciao. Prego. Buona giornata. Tito da Brescia. Sì, salve, in realtà sono a Como in questo momento. Ah, va bene, sì, però. Va bene, sì, comunque. Sei sempre, Tito, sempre sei, ecco, va bene. Sì, sono io sicuramente. Non è cambiato. Niente, io vorrei tentare, secondo me, il riferimento è alla casa di Calderoli a Roma, quello pagato dalla Lega. Grazie Tito, non posso dire nulla, buona domenica, ciao, grazie. Va bene, grazie. Rodolfo da Genova. Ah, buongiorno Stefano, io do subito la risposta sperando che sia giusta. Rodolfo, che sia quella giusta però, perché qui siamo fuori strada, te lo dico subito. Il trasferimento della distilleria Stock da Trieste alla Repubblica Ceca. Rodolfo, sai che non lo sapevo neanche. Ah no, e quindi ho sbagliato completamente. Grazie però dell'informazione, ciao, buona domenica, ciao. Ma che rabbia, è anche facile secondo me. Ernesto, buongiorno. Sì. Buongiorno. Ernesto. Io penso... Abbiamo ancora un indizio se vuoi, però ce lo teniamo lì. No. No, ho un'idea, penso che non serve l'indizio, è così o... Ma niente, ecco, sì. Non fa niente, auguro al prossimo. Io penso sul discorso che comunque la costrizione di vendere la seconda casa perché è impossibile. Ma capito, però questa è voglio dire, non è una notizia, questo è un pensiero che arriva da quello che sta succedendo. Hai ragione. Va bene tutto, però a volte è difficile il mistero, ma qui sarebbe impossibile proprio, perché l'interpretazione della notizia sarebbe molto più complicato. No, non posso dire, ma no, siamo fuori strada, Ernesto. Ciao, grazie. Che rabbia. 800240024, Paola da Milano. Oh, ciao Stefano, sei pronto? Sì, sì, ci sono, Paola. Allora, per me è l'ipotetica liberazione dei due Marò. Grazie Paola. Però non è quella giusta la risposta, mi dispiace. Ciao. Pensava di avercela fatta, niente da fare. Luciano da Reggio Emilia. Sono qua. Eccoci qui. Luciano, allora cosa vogliamo fare? Dare una risposta? Faccio il calciofilo. Sì. E penso a Mario Balotelli. Non voglio tornare a casa, Mario Venuti, no. Non ha nel senso che no. Ah, cioè, perché Mario Venuto, tu dici a volte l'indizio è anche nel nome del cantante, sì, esatto, in questo caso. Ci potremmo anche essere, però crudele, che è l'ultimo indizio che abbiamo scoperto, non ci stava. Mi dispiace. Allora, le ultime due telefonate. Tiziana da Seregno. Sì, pronto? Ciao Tiziana, dimmi. Niente, mi hanno spiazzato gli ultimi due indizi. Allora Tiziana, facciamo... ok, sì, e quindi non sai rispondere? No, potrei buttarla. Potrei buttarla, situazione dei giovani, sì, che sono silenziosi, popolo silenzioso in Italia e che preferisce andare all'estero, emigrare per la risoluzione dei problemi anziché affrontarli in Italia. Ecco, però insomma è una notizia, sì, però un po' troppo generica. Proprio, grazie Tiziana, sì, niente, prego, da fare, mi dispiace, ciao, ma che rabbia. Allora, la notizia, è perché era una notizia, la risposta di oggi, era quella foto che ha girato su Facebook e poi su tutti i giornali online e non soltanto, sui due tunisini con tanto di scotch in bocca mentre venivano rimpatriati casa mia. Per questo non ci sto, perché chi ha fatto la fotografia ha denunciato questo fatto, la voce del silenzio perché non potevano parlare visto che erano stati ammutoliti con lo scotch sulla bocca, e crudele perché il gesto, insomma, è quello che sappiamo. Una notizia che ha fatto molto discutere, ma che purtroppo non vi ha fatto portare a casa niente. È tutto, ci sentiamo domenica prossima ovviamente con il riposo del guerriero. Grazie a Giuseppe Luca in redazione, Gian Gabriel Lombardo in assistenza, Roberto Scaltritti in regia, e io vi do appuntamento certo domenica prossima, ma vi auguro un'ottima settimana da Stefano Gallerini.